Gabbiano. Il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Chi tra i nostri ascoltatori ha un'età attorno ai 20-30 anni ricorderà sicuramente il sorriso di Fabio Cannavaro che solleva la Coppa del Mondo vinta a Berlino nel 2006. Poi invece ci sono quelli diciamo di 40-50 anni che ricordano Dino Zoff che a Madrid nell'82 alza la stessa Coppa. E invece, siccome l'Italia ne ha vinte 4 di Coppe del Mondo, per trovare qualcuno che si ricordi le coppe del 34 e del 38, insomma, si fa, ahimè, più fatica. I testimoni oculari sono inevitabilmente molto pochi, eppure quella fu l'impresa calcistica forse più grande, cioè una squadra che vince 2 mondiali consecutivi con lo stesso allenatore. Nessun allenatore è ancora riuscito a eguagliare questo primato, 2 mondiali. L'uomo che è riuscito in questa impresa è il protagonista della storia di oggi. È prima un calciatore, poi un allenatore, ma è anche un soldato, un giornalista, un uomo libero, uno che è riuscito a prendere decisioni importanti senza farsi condizionare da chi nella sua epoca deteneva il potere e lo esercitava anche in modo incondizionato. Oggi vi raccontiamo la storia di Vittorio Pozzo. Siamo in Piemonte, 1886, ovviamente è un'Italia diversissima da quella di oggi, l'Italia risorgimentale che ha appena finito di combattere per costruire una unità nazionale, insomma, che è sempre in bilico tuttora. Siamo in Piemonte, l'ho detto, è la sede di Casa Savoia, la culla dell'unità d'Italia, e il Piemonte è una regione soprattutto allora aristocratica. Accanto alle famiglie nobiliari vivono tante persone che fanno del lavoro il principio guida della loro vita, il travai, come si dice in piemontese. Siamo a Torino, vicino alla stazione di Porta Susa. Il 2 marzo dell'86 nasce lui, il nostro protagonista, Vittorio Pozzo, figlio di contadini originari di Ponderano, che è un paesino nei pressi di Biel. Si sono trasferiti a Torino per cercare di dare un futuro più dignitoso ai loro figli. I soldi non sono molti, ma tutto viene impiegato per questo progetto: assicurare una buona educazione ai figli. Il giovane Vittorio può così frequentare le scuole dei Salesiani, poi il liceo Cavour di Torino. Però lui è un atleta, gli piace lo sport in generale, gli piace anche il calcio, che è agli albori. Così nel gennaio 1898, quando a Genova si gioca la prima partita di calcio di cui esiste una documentazione certa tra la FC Torinese e il Genoa, lui a 11 anni vende i libri di scuola per andare a assistere a quella partita. Poi c'è un suo amico che si chiama Giovanni Goccione, che è un giocatore della Juve, che lo convince a intraprendere la carriera di calciatore. Mi disse un giorno Goccione: senti, quando ti vedo correre e con te gli altri sui 100, 200 e 400, così con nessuno né niente davanti, sai cosa mi fai venire in mente? Quelle macchine che si vedono in giro adesso, senza nessuno che le tiri, che le trascini. Pare che corrano dietro alle mosche. Così tu, quando hai corso ben bene, cosa hai preso? Al football almeno hai davanti a te qualche cosa, non corri per niente. Questa frase è tratta dal libro del nostro Dario Ricci, La migliore gioventù, edito da Infinito. Ci parla di un calcio che ancora ovviamente non è considerato un lavoro, è solo uno sport, con i giocatori che si comportano in modo molto cavalleresco, all'inglese per così dire, che brindano prima di una partita, che giocano senza pensare a premi, a ricompense. Chi pratica il calcio deve avere anche un altro lavoro oppure deve studiare, e Vittorio Pozzo dopo il liceo viaggia molto, impara le lingue, impara il francese, il tedesco, l'inglese, che studia in quell'Inghilterra dove lui ha modo di assistere a delle partite, le partite del Manchester. Impara da quelli che sono gli inventori del calcio moderno, gli inglesi, ma soprattutto lui viaggia per l'Europa. E si va in Svizzera a giocare a calcio. Dal 1905 al 1911 Vittorio Pozzo è nel Grasshoppers e poi si torna a Torino, nel neonato Torino, è nato da una costola della Juventus, lui è uno dei primi fondatori di questa squadra e lui lì non fa solo il giocatore, a quel tempo la figura dell'allenatore non esiste, in genere viene ricoperta dal capitano, da uno di quelli che stanno in campo, ma lui ha maturato esperienza in Inghilterra, è un precursore dei tempi, comincia a ricoprire incarichi dirigenziali all'interno della società. Lui è abituato a comandare perché dopo gli studi è diventato dirigente alla Pirelli, sa come organizzare il lavoro dei suoi dipendenti, la parola chiave è disciplina, è un modo di pensare che lo rende idoneo a essere chiamato alla guida della nazionale italiana di calcio che sta partendo per le Olimpiadi di Stoccolma del 1912. Beh, è una nazionale ancora debole, raffazzonata, amatoriale, infatti verrà eliminata subito, ma questo è il primo approccio di Pozzo con il calcio internazionale, lui vuole imparare cose che potranno servirgli nel tempo. Terminata l'avventura svedese, lui torna al suo lavoro di tutti i giorni alla Pirelli, ma all'orizzonte cominciano a delinearsi le prime avvisaglie della guerra. E poi si va addirittura in Brasile, il Torino va in Brasile a giocare per 3 mesi, un tour succedeva in quel periodo, siamo nell'autunno del 14, però a Genova quando il piroscafo attracca, e per tutti ci sono i fogli verdi e gialli che significano una cosa sola, arruolamento. Pozzo diventa un alpino, combatte su tutti i fronti, Montenero, Carnia, Piave, Grappa, e attorno a lui vede morire i suoi amici, vede morire molti giocatori che con lui hanno condiviso la passione per il calcio. Fossati, Goggio, Caimi, sono questi i nomi dei calciatori che si sono aggiunti alle decine di migliaia di morti della Grande Guerra. Però Vittorio Pozzo impara una cosa importante dalla guerra, i valori della vita militare: patriottismo, rigore, disciplina, sono valori che condizioneranno da quel momento tutta la sua vita. Sons of the silent age, stand on platforms, blank books and notebooks, sit in back rows of city limits, lay in bed, coming and going on easy terms. Sons of the silent age, pace their rooms like a cell's dimension, rise for a year or two, then make war, search through their one-inch thoughts, then decide it couldn't be done. La guerra finisce e ricordiamoci che stiamo parlando di anni nei quali il calciatore era, come dire, un passatempo, e quindi intanto bisogna lavorare, lui continua a lavorare alla Pirelli. Se il calciatore ha un ruolo che non porta guadagni, figuriamoci l'allenatore, che è un ruolo ancora assolutamente indefinito e indefinibile. Pensate che dopo la parentesi delle Olimpiadi di Stoccolma del 12 con Pozzo in panchina, l'allenatore della nazionale è in realtà una commissione tecnica di cui fanno parte dei dirigenti, ex calciatori, arbitri, giornalisti, quindi nulla a che vedere con il calcio di oggi. E poi nel 24 però Pozzo viene chiamato nuovamente alla guida della nazionale per andare alle Olimpiadi di Parigi. In quell'occasione lui divide la panchina con un inglese, William Garbutt, che in quel periodo sta allenando il Genoa, che vince scudetti su scudetti. E peraltro si dice che l'abitudine di chiamare l'allenatore mister derivi proprio da lui, da questo inglese Garbutt, che tutti chiamavano appunto mister. Quella volta l'Italia arriva ai quarti, viene sconfitta dalla Svizzera e Pozzo lascia di nuovo l'incarico di allenatore, deve tornare a casa anche perché deve assistere la moglie che è stata colpita da una malattia dalla quale purtroppo non guarirà, morirà qualche mese dopo. E poi Pozzo lascia Torino, va a Milano negli uffici della Pirelli, ma comincia a scrivere di sport per la stampa, è diventato un giornalista. Intanto Mussolini ha preso saldamente il controllo del paese ed è uno dei primi a rendersi conto di quanto lo sport possa servire per rinforzare l'orgoglio nazionale. Tutte le dittature, insomma, hanno fatto leva sullo sport come strumento di comunicazione, di propaganda per compattare un popolo. Così nel 29 Pozzo viene avvicinato da Leandro Arpinati, che è il presidente della FIGC e peraltro un personaggio di spicco del partito fascista. Arpinati convince Pozzo a lasciare il suo lavoro alla Pirelli per prendere le redini della nazionale italiana come commissario unico. Bene, Pozzo accetta, ma a una condizione: per questo incarico non vuole ricevere alcun compenso, avete capito bene. Chiede di non essere pagato, vuole garantirsi completa autonomia decisionale, nessuna interferenza dall'esterno, non vuole padroni, e chi ti paga in qualche modo è il tuo padrone. Insomma, è una rivoluzione assoluta, un colpo d'ala che fa nascere per la prima volta la figura dell'allenatore moderno. Pozzo è un uomo all'antica, è istruito, è garbato, però sa l'inglese, il francese, il tedesco. Quando parla, parla lentamente, misura le parole. E poi è un militare, è un uomo dotato di un grandissimo senso del dovere, della disciplina, un uomo che ha combattuto il nemico credendoci, per difendere i valori della patria, e continua a applicare nella vita di tutti i giorni le regole che lui ha imparato indossando quella divisa. Però un innovatore, perché introduce delle novità, per esempio i ritiri pre-partita, che oggi sono diventati una regola nel mondo del calcio. Però è un uomo che guarda i suoi giocatori con gli occhi di un padre, li segue in ogni momento della preparazione, ne diventa amico, confidente, consigliere. Dalla pensione, il massaggiatore che un tempo fu il bravo pugilatore Alberto Farabullini consegna la posta a Vittorio Pozzo, che sta esaminando i giornali sportivi, specialmente quelli inglesi. È da buon stratega sapere come la pensano gli avversari, non vi pare? Ora Pozzo ha interrotto la lettura, tutto compreso della responsabilità di portalettere, sia pure onorario. La corrispondenza è molta. Ragazzi, adunata! Guardate come corrono. Ragazzi, adunata, insomma, quello è il clima. Intanto nel 30 c'era stato il primo campionato del mondo di calcio in Uruguay, vinto dall'Uruguay. L'Italia non aveva partecipato. Mussolini è riuscito però a ottenere l'organizzazione dei mondiali del 34 e li vuole vincere. E così lui si mette al lavoro, gira l'Italia in lungo e largo alla ricerca di talenti, vuole formare una nazionale che possa vincere, una nazionale molto competitiva. È come un generale che chiama i riservisti, perché convince a tornare a giocare Combi, il portiere della Juve che aveva annunciato il ritiro, e anche Attilio Ferraris, che è una testa calda. Pare che Pozzo l'abbia trovato in un bar mentre giocava a poker. Notizie insomma romantiche, però c'è un grande fondo di verità in questo. Insomma, Pozzo mette insieme un bel gruppo di giocatori e poi inserisce degli oriundi, schiavi, orsi, Guaita, figli di emigrati in Argentina. Qualcuno si lamenta, vorrebbe una nazionale tutta italiana, però la risposta è lapidaria: se possono morire per l'Italia, possono anche giocare per l'Italia. È una risposta che zittisce tutti. E poi c'è lui, c'è il Balilla, il campione di cui abbiamo già parlato, Giuseppe Meazza, gioca nell'Ambrosiana Inter. L'11 maggio del 30 ha segnato una tripletta a Budapest in una partita della Coppa Internazionale, una sorta di pre-campionato europeo. L'Italia batte a Budapest i magiari, gli ungheresi e altri come dire, padroni e inventori dei fini dicitori di calcio. Bene, e questa è la prima grande vittoria per lui, per Vittorio Pozzo, con questo nome così profetico. Vittorio, la nazionale è pronta per raccogliere la sfida del mondiale. E Pozzo, come un abile generale, si sta preparando alla battaglia. Il falco e il gabbiano. stiamo raccontando la storia del primo grande allenatore italiano, quello che ha inventato il ruolo di allenatore, questo giornalista con la passione del calcio, già tra i fondatori del Torino Calcio, e che più volte aveva preso in mano le redini della nazionale italiana e che questa volta è il conduttore unico di questo grande progetto, quello di vincere il campionato del mondo del 1934 che sta per giocarsi proprio in Italia. Ricordiamo che siamo in piena epoca fascista, i giocatori in campo fanno il saluto romano, il presidente della FIGC è un gerarca del partito. Pensate che Pozzo non ha mai neanche avuto la tessera del partito fascista, però viene trattato con i riguardi che merita e riguardi di cui normalmente godono i gerarchi. Insomma, molti pensano che anche lui lo sia veramente e alcuni lo penseranno anche dopo, alla fine della guerra, sbagliando. In realtà Pozzo è un soldato, è un nazionalista integerrimo che ha combattuto sul Piave per difendere l'Italia, è un uomo che crede nella disciplina militare, che ha un profondo senso del dovere. Sentite come racconta Anando Martellini qual era il suo metodo di lavoro. Tutto dipendeva dalla serietà e dalla profondità con la quale noi facevamo le cose. Io ogni ordine che davo spiegavo il perché, come era necessario fare quella determinata cosa. Sapevo tutto dei giocatori miei, aprivo le loro lettere e poi gliele davo aperte, le ho lette io, puoi star sicuro che nessuno ne saprà il contenuto. Impedivo loro di leggere i giornali perché desideravo che i giocatori sentissero una voce sola e a quella ubbidissero. Non partivo dal principio di certi commissari che mi avevano preceduto, cioè di formare la squadra e poi di lasciarla andare allo sbaraglio da solo. Dicevo, l'ho formata io, ne assumo la responsabilità e la porto in combattimento da buon ufficiale, come credo di essere stato nei 7 anni di naia che ho fatto. Vedete, insomma, chiaramente, insomma, è un altro modo di approcciarsi al calcio, alla vita, ma è un modo che ha reso molto. Magari sono parole che oggi fanno tenerezza se, insomma, paragonate agli istrionismi degli allenatori di oggi o ai battibecchi televisivi, ma allora era l'uomo giusto nel momento giusto. Ma arriviamo al mondiale, 16 squadre, partite a eliminazione diretta, l'Italia che batte gli Stati Uniti 7-1 nel primo turno, e poi c'è la Spagna. Nella Spagna c'è un portiere leggendario che si chiama Zamora. Meazza non è mai riuscito a fargli gol. La prima partita finisce 1-1, Meazza non segna e non c'erano i rigori. La partita va ripetuta e questa volta, forse anche per nostra fortuna direi, Zamora non c'è e Meazza segna 1-0. Si va in semifinale contro l'Austria e qui ci sono gli austriaci, quelli con i quali Pozzo ha combattuto per 7 anni di naia, come dice lui. Per lui l'Austria è ancora quello, è quel nemico combattuto sul Piave. Vincere serve a scacciare via i fantasmi che ci sono dietro agli orrori della guerra, e l'Italia vince, gol di Guaita, e si va in finale. Combi Monzeglio Allemandi, Ferrari Squarto Monti Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari, Orsi, questi sono gli 11 che Pozzo schiera in finale. Ferrari Squarto, che riveste questo ruolo importantissimo, è il centromediano metodista. Sono i migliori giocatori di Juve, Roma, Bologna, Inter, l'ossatura di questa nazionale che il 10 giugno del 34 sconfigge 2-1 la Cecoslovacchia. Si va ai supplementari perché prima aveva segnato la Cecoslovacchia, poi pareggia Mumo Orsi e ai supplementari Schiavio segna il gol della vittoria e quasi sviene tra le braccia dei compagni. L'Italia vince per la prima volta il campionato del mondo di calcio. Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè. Però qualcuno storce il naso perché afferma che il merito della vittoria va agli oriundi, che sono di fatto argentini. Si dice che questa nazionale non sarebbe mai arrivata alla vittoria con le proprie forze. Insomma, c'è del malcontento che viene anche un po' alimentato dall'opposizione politica contraria al regime fascista. E poi nel frattempo sta arrivando l'autarchia, quindi bisogna vincere con gli italiani. Insomma, lui è ancora al di sopra delle parti, non fa politica, lui allena la nazionale, però queste critiche le prende come una sfida personale per dimostrare il suo valore di condottiero del suo piccolo esercito. The Chancellor would now formally open the games. I proclaim open the Olympic Games of Berlin, celebrating the 11th Olympiad of the modern Olympic era. Berlino 1936, il Führer dichiara aperti i giochi olimpici, quelli che la Germania ha voluto fortemente organizzare. È l'Olimpiade di Jesse Owens, il nero che befferà tutto un regime vincendo 4 medaglie d'oro. È l'Olimpiade di Ondina Valla, la prima italiana ad aver vinto una medaglia d'oro olimpica, ma è anche l'Olimpiade di Vittorio Pozzo. 24 anni dopo l'infelice spedizione di Stoccolma, Pozzo torna a allenare la squadra olimpica e rincorre la medaglia d'oro. Il regolamento olimpico impedisce la convocazione di giocatori professionisti. Vittorio Pozzo crea una squadra ad hoc, giovani giocatori presi dalla Serie A e dalla Serie B, tutti rigorosamente studenti. Tra i convocati ci sono Foni e Rava, i due terzini che poi passeranno alla nazionale maggiore, c'è Locatelli e poi c'è un signore che si chiama Annibale Frosci. Io mi ricordo che me ne parlava sempre mio padre, perché io da bambino ero stato costretto a mettere gli occhiali e quindi soffrivo molto, e mio padre mi citava Annibale Frosci, che in quegli anni era un giocatore che giocava con gli occhiali, era nell'Aquila, poi arriverà all'Inter. Insomma, per me era, come dire, un motivo di speranza, ed era un motivo di speranza per tutti i bambini con gli occhiali della mia generazione. La destra Frosci tira lungo la linea laterale, giunge sull'angolo estremo, entra il movimento Frosci, che tira, ha segnato. E questo è il primo dei due gol con cui l'occhialuto Annibale Frosci batte l'Austria. 2-1, prima e unica medaglia d'oro nella storia delle Olimpiadi moderne, medaglia d'oro del calcio. Pozzo ha dimostrato di poter vincere anche con giocatori diversi. Per lui conta il gruppo, questo colpo d'ala è eccezionale. Non ha schierato un giocatore che aveva vinto nel 34, eppure ha vinto ancora. Insomma, tutto fa pensare che anche i mondiali del 38 a Parigi saranno dei mondiali nei quali l'Italia giocherà un ruolo da protagonista, anche perché nel frattempo è nato un altro astro nel calcio italiano, si chiama Silvio Piola. Il falco e il gabbiano. In quegli anni in Europa si gioca la Coppa Internazionale, un trofeo che metteva a confronto le principali squadre europee, insomma l'antesignano del campionato europeo. E un anno prima delle Olimpiadi di Berlino la nazionale maggiore aveva vinto la sua seconda Coppa Internazionale e darà il via a una serie di 30 risultati utili consecutivi. Ma è il momento di andare in Francia, mondiale del 1938. La nazionale è rinnovata per 9 undicesimi, sono rimasti solo Meazza e Ferrari. Ci sono inserimenti dal Bologna, dalla Triestina, ma anche dalla Roma, dalla Lazio. C'è un solo oriundo, l'uruguaiano Andreolo. Pozzo vuole dimostrare a tutti di averla meritata quella vittoria del 34. È andato oltre alle polemiche ingiuste, cattive, strumentali direi. Insomma, l'Italia va in terra francese come la squadra simbolo del suo paese, in realtà anche come la squadra simbolo del suo regime. E tra il pubblico ci sono molti antifascisti scappati dall'Italia. La nazionale arriva e come d'abitudine fa il saluto romano. Il pubblico francese fischia gli azzurri, l'ambiente è ostile, gli gli italiani all'estero gufano. Il primo turno con la Norvegia sarebbe una partita facile sulla carta, invece bisogna andare ai supplementari per aspettare il gol di Piola che ci garantisce il passaggio del turno, e al turno successivo c'è proprio la Francia. Mussolini decide un personale intervento sulla divisa. La partita l'Italia la giocherà non con la tradizionale maglia azzurra, ma per la prima e unica volta in completo nero. Pozzo non è d'accordo, ma non vuole mettere il naso, non può probabilmente anche mettere il naso in questioni che esulano il calcio giocato. Lui deve pensare a vincere quella partita. Segna con la Ussi, la Francia pareggerà e poi c'è una doppietta di Piola. Il punteggio è fissato sul 3-1. Abbiamo battuto i francesi in casa loro. Nello stesso stadio di Marsiglia, dove già gli azzurri ebbero a disputare in questo campionato del mondo la prima vittoriosa partita di qualificazione, la nostra squadra viene opposta in semifinale all'11 brasiliano. È forse la partita più ricca di incognite di tutto il torneo, questa che mette di fronte le compagini meglio agguerrite d'Europa e del Sud America. Semifinale Italia-Brasile, i brasiliani con un atteggiamento un po' spocchioso che hanno mostrato in moltissimi mondiali decidono addirittura di non schierare il loro giocatore più forte, Leonidas, e per risparmiarlo per la finale. E i brasiliani queste robe le fanno spesso. L'Italia vincerà 2-1, è la partita in cui Meazza tirerà un rigore e durante la rincorsa gli si romperà l'elastico dei calzoncini. Lui segnerà il rigore tenendo i calzoncini con la mano e alla fine si va di nuovo in finale. Al quinto minuto il primo gol degli azzurri. Gli ungheresi, spronati dal primo successo italiano, corrono alla riscossa e il pareggio non si farà attendere. Il secondo gol italiano arriva come il risultato di un'azione condotta con tecnica impeccabile. E avanti che il primo tempo abbia fine è seguito da un altro. Questi punti azzurri e l'entusiasmo dei presenti hanno nome Colaussi, Ferrari e Piola. Ora gli inglesi moltiplicano gli sforzi per recuperare il distacco, riuscendo dopo numerose azioni offensive a ottenere il secondo punto. Ma gli azzurri ritrovano in un finale magnifico il loro slancio combattivo e segnano ancora poco dopo con un tiro imparabile di Colaussi. La squadra italiana è per la seconda volta campione del mondo. Olivieri, Foni, Rava, Serantoni, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. Questi sono gli 11 giocatori che portano in Italia la Coppa del Mondo. Ma soprattutto in panchina c'è lui, c'è Vittorio Pozzo, che va a stabilire quel record che nessun allenatore del mondo è ancora riuscito a eguagliare. 2 mondiali consecutivi vinti sulla stessa panchina. Però ancora una volta all'orizzonte ci sono i 20 di guerra. E anche nel mondo del calcio si cominciano a cambiare le carte in tavola e insomma la guerra toglie ai grandi campioni la possibilità di vincere ancora. Pozzo è deluso, è contrario alle decisioni di Mussolini, alla fine aderisce addirittura al Comitato di Liberazione Nazionale. Insomma, Bocca ricorda che Pozzo era uno che apprezzava i treni in orario ma non sopportava gli squadrismi, che rendeva omaggio al monumento degli alpini ma non ai sacrari fascisti. Insomma, è un uomo che ama l'Italia, ama il suo paese, però è abbastanza scettico nei confronti del fascismo. Alla fine della guerra Vittorio Pozzo riprende il suo posto alla guida della nazionale italiana, però è un periodo strano in Italia, molti devono fare i conti col passato, chiunque abbia fatto la minima cosa prima della guerra viene visto con sospetti anche ingiustificati. Insomma, la FIGC sta solo aspettando un passo falso di Vittorio Pozzo per interrompere la sua carriera alla guida della nazionale. La formazione va rinnovata ancora, questa volta è composta in gran parte dai giocatori del Grande Torino, e il 16 maggio del 48 si gioca un amichevole importante, Italia-Inghilterra. E bisogna ricordare che gli inglesi si sono sempre tenuti alla larga dalle competizioni, loro si sono ritenuti superiori e inventori del calcio, quindi ogni tanto per gentilezza sfidavano le grandi squadre, quelle che vincevano i mondiali. Insomma, c'è questa amichevole che è l'occasione per dimostrare che l'Italia ha raggiunto un livello di gioco simile a quello degli inglesi. Però il verdetto del campo racconta una storia diversa, una storia che ha delle conseguenze molto dolorose per Pozzo, perché allo stadio comunale di Torino l'Inghilterra vincerà 4-0 e Pozzo è trascinato nella bufera e naturalmente da uomo dignitoso e da uomo tutto d'un pezzo, come si diceva una volta, lui si dimette. Il 16 maggio del 48 termina ufficialmente la carriera sportiva di Vittorio Pozzo, che peraltro aveva continuato a fare il giornalista, cosa che farà ancora, e il suo addio ovviamente è un addio fatto con garbo, senza polemiche, se ne va da gran signore. Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori, è caduto un apparecchio. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Il 4 maggio 1949 l'aereo con a bordo la squadra del Torino al ritorno da un amichevole con il Benfica si schianta contro la Basilica di Superga. Tra i passeggeri ci sono anche 3 giornalisti delle principali testate torinesi. Per la stampa c'è Luigi Cavallero. Su quell'aereo avrebbe dovuto esserci Vittorio Pozzo. All'ultimo momento sono stati i dirigenti del Torino a dire di no, non l'hanno voluto, eppure è proprio Pozzo che viene chiamato per il terribile compito di riconoscere le salme dei giocatori, dei suoi ragazzi. È un dolore tremendo che lui non avrebbe mai voluto provare, anche perché lui era stato tra i fondatori di quel Torino, della squadra del Torino, seguiva questi ragazzi un po' come quando seguivi i ragazzi della nazionale, come col solito piglio da generale che organizza e dirige il suo piccolo esercito. Era un po' un padre ombra, un allenatore ombra di quel grande Torino. Pozzo è morto il 21 dicembre 1968 a 82 anni dopo la fine della sua carriera da allenatore. Ha continuato a fare il giornalista, è stato uno dei maggiori sostenitori del centro federale di Coverciano. Nel 2008 gli è stato intitolato lo stadio di Biella, e con tutto rispetto per Biella è un po' pochino per un allenatore che ha vinto 2 campionati del mondo, però negli anni della Repubblica lui è stato un eroe scomodo e qualcuno, sbagliando con il classico rancore del dopoguerra, ha associato l'immagine di Pozzo al fascismo, alla propaganda fascista. Non è così. Un uomo che ha deciso di fare l'allenatore a condizione che non fosse pagato. Un uomo che ha portato l'Italia a vincere 2 mondiali. Un uomo che ha trattato i suoi giocatori come dei figli, con amore e grande disciplina. Un uomo che ha stabilito un record che nessuno è riuscito ancora a eguagliare: vincere 2 mondiali. Un uomo che ha segnato l'epoca gloriosa del calcio italiano. Noi vi aspettiamo dopo la storia di Vittorio Pozzo con altre storie. Segnalateci via mail al falcoilgabbiano@radio24.it se conoscete una storia che merita di essere raccontata. Seguitemi, interagite sul sito di Radio 24, sui social di Radio 24, sui miei social, insomma, se mi cercate, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.